peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi la trasmissione direi che è dedicata a uno strumento principe, che è il pianoforte, strumento col quale diventa sempre più difficile riuscire ad esprimere delle modalità originali, dei linguaggi originali, perché i grandi maestri hanno esplorato il rapporto tra appunto lo spazio che lascia il piano armonico, diciamo, questa grandissima semplicità, questa che è rappresentatività della musica con quello che è il mondo del jazz. Il limite del pianoforte è quello di costringere le tonalità, costringere in sostanza la musica in ambiti molto più formali. Ma ogni tanto qualcuno naturalmente emerge di interessante, come un nuovo talento col quale apriamo oggi, che è un giovane con la sua opera prima come leader. Si tratta di David Vireles, un latinoamericano poi che si trasferisce nell'ambito newyorkese e anche però chicagoano. Ha una carriera particolare, ha una, diciamo, una vitalità musicale particolare, perché è uno dei sidemen attualmente più richiesti, più, come dire, che hanno suscitato più interesse. Ad esempio è nell'ultimo gruppo di Thomas Tanco, che peraltro ha con successo inciso un disco recentemente per l'ICM, ma è anche nella formazione di Chris Potter, Chris Potter che peraltro propone nel suo ultimo lavoro discografico un abbinamento di pianoforti con Craig Taborn al pianoforte vero e proprio e al piano elettrico e piano preparato, David Vireles appunto. Ma poi anche collaborazioni con Tridgill, che lo vede un po' come una sorta di pupillo, quindi collabora con molti dei musicisti dell'ambito diciamo chicagoano o comunque della provenienza, diciamo, stilistica di Tridgill o di Steve Coleman. Questo lavoro è uscito appunto quindi per l'etichetta che è fondata principalmente proprio da Tridgill, la P Records, ed è vede una formazione in trio sostanzialmente, che però si aggiungono in diverse occasioni altri ospiti, fino ad arrivare anche a una formazione più nutrita, dalla quale fanno parte ad esempio musicisti anche abbastanza lontani tra di loro, come Mark Turner al sax tenore, al clarinetto basso, e Jonathan Finlayson alla tromba, un nuovo talento tra i più importanti del suo strumento. Poi si aggiungono un grande padre, un grande maestro della percussione e della batteria, come Andrew Cyril. Si aggiungono anche altri, Ben Strittal naturalmente come bassista che ha una lunga esperienza come sideman un po' nell'ambito del mainstream. Quindi in sostanza i musicisti che utilizza Vireles sono provenienti da ambiti anche molto diversi tra di loro, sia nell'ambito del mainstream sia in quello anche di una certa avanguardia. Ascoltiamo un paio di brani, un paio di esempi quindi anche di questa vitalità espressiva. Sicuramente l'intenzione è quello di recuperare linguaggi latinoamericani e delle radici africane, che questo peraltro viene anche a suggerire. Ascoltiamo due composizioni, entrambe naturalmente di David Vireles, con la prima in formazione più contenuta, la seconda con un organico maggiore. Sandra Wanyong Ekwe, Ekusa. Maria. Maria Lao. Panderiero africano. Maria Lao. Maria Lao, ¿quién es? En Yene. Huracondo. Etiea Foma. Aguarañongo. En Kerebe. Borilori. Ama. Akama. Akama. Engene Iwonda. Questo era il David D. Reles al pianoforte. Una cosa che accomuna un po' ormai tutte le nuove generazioni di pianisti è quella di una competenza, di una preparazione tecnica di tipo accademico, per cui il linguaggio che utilizzano, trasformandolo poi anche in espressione jazzistica, è un linguaggio che parte da una preparazione classica anche profonda. C'è una competenza armonica di buon livello, questo lo notiamo anche in questo giovane pianista, e quindi, come dire, anche l'impostazione poi stessa delle composizioni risentono di questo tipo di impronta. Vireles poi, tra l'altro, ha una sua vocazione che è trasversale anche alle forme espressive, è molto visivo anche questa, per esempio questa declamazione che abbiamo ascoltato, con un tessuto musicale intorno anche caotico, che naturalmente con riferimenti al free, sono i riferimenti al free sono classici. Comunque è una buona opera prima che presenta degli aspetti interessanti. Un altro pianista, un'uscita recente che tra l'altro ha suscitato una certa attenzione e era piuttosto atteso anche, l'ultimo lavoro di Craig Taborn in trio, in questo caso è stato naturalmente sempre l'ECM che ormai pubblica i lavori di Taborn già da qualche tempo. Taborn precedentemente aveva iniziato con un piano solo, naturalmente secondo me decisamente ben riuscito, ma anche è difficile da poter reggere. In questo caso si presenta con un trio formato da Thomas Morgan. Questi sono sidemen, talenti nuovi che tra i più richiesti, come questo Thomas Morgan al contrabbasso e ormai uno consolidato, un leone consolidato come Gerald Cleaver. Il risultato a mio avviso è decisamente notevole e non è, come dire, esistono anche, ci sono anche momenti di caduta nella qualità dei brani, però complessivamente un lavoro di grande livello, con punte notevolissime. Ascoltiamo qualche brano, intanto ne ascoltiamo un paio, composizione naturalmente dello stesso Craig Taborn. Il primo, che è anche quello di apertura del disco, è Saints, e poi ascoltiamo anche Hot Blood. Thank you. Questo era il trio di Crack Tabor nell'ultimo lavoro pubblicato per l'ECM, disco intitolato Chance. La cosa curiosa è che questo ha cambiato un po' la sua modalità espressiva, Tabor. Tabor ha poi anche una peculiarità, quello di cambiare a seconda del contesto nel quale si trova. Lui è abituato a suonare in gruppi molto diversi tra di loro, proprio come non tanto come qualità, perché sempre di altissimo livello si parla. Penso per esempio al gruppo di Chris Potter, oppure al gruppo anche di Formanek con Tim Bern. Quindi linguaggi molto diversi anche tra di loro, e lui non è che propone solo se stesso in questi contesti, ma si modifica a seconda anche delle intenzioni che il leader può portare avanti. E poi questa capacità di modificare la propria intenzione musicale non è che sia subordinata a una mancanza di chiarezza di idee, quanto proprio a una volontà di esprimersi con lingue diverse. In questo caso, per esempio, in questo disco emergono delle affinità interessanti e anche curiose con un altro pianista di grande spessore, della stessa generazione più o meno, penso a Ethan Iverson, il pianista del Bad Plus, e che quindi è molto diverso anche dal suo profilo, dal profilo di Tabor. Ascoltiamo un ultimo brano, perlomeno in parte. È anche la composizione, come dire, più lunga, più con un impegno forse anche maggiore. Ascoltiamo All Through La Night. Questo era il trio di Craig Taborn, composto da, oltre che da Taborn naturalmente al pianoforte, da Thomas Morgan al contrabbasso e Gerald Cleaver alla batteria. L'ultimo lavoro, intitolato Chance, è uscito recentemente per l'ECM. Sempre l'etichetta ECM ha pubblicato recentemente, in questi giorni, un altro lavoro di Kay Jarrett. È la registrazione di un concerto, come ormai quasi sempre avviene per le pubblicazioni dei nuovi lavori, dei nuovi dischi di Jarrett, e dà l'impressione di coprire maggiormente, semmai, uno spazio editoriale più che un bisogno espressivo. La cosa più interessante, a mio avviso, è che in questo caso Jarrett si propone col trio, con Gary Peacock al contrabbasso e Dejonette alla batteria, e quindi un trio che ha quasi ormai una quarantina d'anni abbondanti, di un'esperienza notevolissima alle spalle, che all'inizio produce delle cose straordinarie. Oltretutto i primi lavori si chiamavano Standards, era lo Standard Trio, nel senso che nasceva proprio con l'intenzione di Jarrett di reinterpretare, di elaborare degli standard e di proporli a suo modo, proprio perché una delle qualità straordinarie di Jarrett è proprio quella di riuscire ad armonizzare, a dare un'armonizzazione nuova alle composizioni più conosciute, peraltro. Ma il tempo passa, naturalmente non aiuta, l'età non aiuta l'elasticità mentale, e i risultati in questo caso, che il lavoro è quasi interamente dedicato alle musiche di Leonard Bernstein, e il risultato non è esaltante, pur naturalmente avendo dei momenti notevolissimi, le zampate del leone. Rimangono indubbiamente, Jarrett rimane uno dei grandissimi della storia del jazz, ma più per quello che ha fatto che per quello che sta facendo, a mio avviso. Questo è un concerto registrato nel 2009, quindi risale un nastro che risale qualche anno fa. Peraltro l'ECM registra quasi tutti i concerti, se non tutti i concerti di Jarrett, per poi riservarsi la possibilità di pubblicarli quando ritiene opportuno da un punto di vista editoriale, appunto. Ascoltiamo il brano d'apertura, uno dei più riusciti peraltro, il brano d'apertura, che è un composto di Deep Space e Solar. Sono due brani che si integrano. Jarrett ha un incipit di grande livello armonico, poi uno svolgimento, diciamo, più dinamico, dove il drumming di Dejonette e il contrabbasso di Peacock hanno un incedere che traina con grande vitalità il trio. Il disco, lo ricordo, è intitolato Somewhere ed è uscito recentissimamente. Thank you. Questo era il trio di Kay Jarrett con Gary Peacock al contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria, quindi il trio classico di Jarrett, in un lavoro uscito recentemente per etichetta ECM intitolato Somewhere, una registrazione di un concerto del 2009. È anche l'ultimo ascolto questo, e quindi direi che possiamo salutarci. Vi ricordo che la trasmissione e tutte le informazioni relative a quello che abbiamo ascoltato le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it, la sezione musica. Questo è tutto e salve, alla prossima. Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.